posso andare. È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ascoltiamo insieme un po' di storie ferramentose, utensili vari. Passami la pinza intanto. E poi scegliamo insieme quale utensile portare questa notte. Se esagero, me lo dite e io cercherò di non estremizzare troppo. Non estremizzare troppo. Il punto è che io mi lascio incantare e devastare dalle armonie più profonde, così come dai suoni più incazzati e più bastardi. Sono due storie completamente diverse, ma molto parallele. Quindi non riesco a stare senza. Per riuscire a respirare bene devo avere una e l'altra. Una e l'altra. Bisogno di dondolare ascoltando delle profonde armonie, toccanti, struggenti, gioiose, così come il bisogno di zompettare, scalciare e tirare i calci contro il muro ascoltando dei brani composti da suoni acidi, incazzati, bastardi, che a tempo mi diano la sensazione del passo in avanti, del cammino deciso verso qualcosa che voglio raggiungere, che sto sognando. Di dondolare ascoltando delle profonde armonie, toccanti, struggenti, gioiose, così come ho bisogno di zompettare, scalciare e tirare i calci contro il muro ascoltando dei brani composti da suoni acidi, incazzati, bastardi, che a tempo mi diano la sensazione del passo in avanti, del cammino deciso verso qualcosa che voglio raggiungere, che sto sognando.

Amo, a che ora arrivi stasera? Amo. Oh, non giochiamo sul comodino. Non vi dimenticate che abbiamo tutti un appuntamento sabato prossimo a Rimini, discoteca Altro Mondo, ore 22:30 all'incirca. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Se per te è la prima volta, lasciati andare. Unisciti a noi. Oh! So che a volte i brani, i suoni che ascoltate sul cammino sono un po' troppo violenti, un po' troppo aggressivi. Penso che la nostra vita, la nostra giornata sia fatta anche di questi momenti, di queste situazioni, queste confusioni. Oh! Sia fatta di queste storie, di queste situazioni. Quindi penso sia molto naturale che questo cammino sia così lunatico, proprio perché non stagna, ha un suo carattere, ai suoi momenti scuri, i suoi momenti splendenti, i suoi momenti struggenti, i suoi momenti no. I suoi momenti noiosi, i suoi momenti. Io capisco che la mente tende continuamente ad abituarsi a un qualcosa e a stagnare lì, ma io non ce la faccio proprio. Voglio piangere per l'emozione e voglio spaccarmi un piede contro un muro dall'incazzatura che mi provoca un disco come questo. We'll be right back. Se qualcuno si è fermato, il cammino va salutato. Non è che possiamo fermarci. Non è che siamo qui a snocciolare le olive, eh. La frequenza è codesta e la musica pesta. No, poi dicono che non riesco a fare le rime. Cioè, a lavorare, tutti, forza. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stai ascoltando i passi del cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stato puro, tutti gli altri insonni sono. Ma diciamo che a me mi piace molto sentire la musica da discoteca. E qua dobbiamo lavorare, non è che siamo qui a snocciolare le olive.